L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Benvenuti, nella prossima ora rivivremo le emozioni, le notizie più importanti, le suggestioni dell'ultima settimana, quella cominciata sabato scorso 7 novembre che si è conclusa ieri 13 novembre venerdì. Di cose da raccontare ce ne sono naturalmente tante, non so se avremo il tempo per ricordarle tutte. C'è la politica, persino troppa in questa settimana convulsa, poi c'è l'economia che ha ruotato soprattutto attorno alla G20 in Scozia, c'è il ventennale della caduta del muro e poi c'è Obama che ha avuto una settimana delle sue intense e cruciale, si è divisa tra riforma della sanità e viaggio in Asia che è tuttora in corso. Ma cominciamo dalla politica. E per parlare di politica abbiamo un gradito ospite, un collega, un amico, Vincenzo Miglietta, voce di Radio 24 dai Palazzi del Potere. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno a voi. Allora Vincenzo, qualche settimana fa al tuo posto era seduto Stefano Folli, notista politico del Sole 24 Ore, che aveva usato una parola molto forte per descrivere lo stato d'animo e dell'arte della politica italiana, cioè aveva parlato di nevrosi. Secondo me a distanza di qualche settimana siamo arrivati ad un livello, ad un gradino anche superiore, potrei parlare tranquillamente di isteria perché poi tutto è legato a questo tema che possiamo definire lacerante che riguarda Berlusconi, che lo insegue e lo perseguita da 15 anni, cioè la giustizia. Direi che è tutto un crescendo incontrollato ormai da più settimane, dalla sentenza Mondadori alla bocciatura del Lodo Alfano, poi c'è stata la sentenza di appello di Mills, tra l'altro in questi giorni sono uscite le motivazioni dell'appello e quindi mi sembra che si faccia un po' a gara chi alza più i toni e chi alza più la posta, non pensando magari anche alle conseguenze. Allora, per capire bene di cosa stiamo parlando, riassumiamo un po' tutto quello che è successo giovedì, che è stata la giornata calda della settimana, con questo servizio dal Senato di Elisabetta Fiorito. Tre articoli, ma bastano a scatenare un putiferio. La maggioranza presenta in Senato il disegno di legge per il processo breve. L'opposizione insorge, il Popolo della Libertà però va avanti lo stesso. Il capogruppo PDL in Senato, Maurizio Gasparri. Abbiamo presentato una legge per garantire tempi certi dei processi, nel rispetto delle norme della Costituzione e delle norme internazionali, che l'Italia spesso viola, conseguendo per questo fatto multe pesantissime dalle autorità europee. L'opposizione reagisce duramente. Il capogruppo PD al Senato, Anna Finocchiaro, sbatte al muro il testo del disegno di legge. L'ho sbattuto perché mi sembrava ingiusto e francamente reputo per me intollerabile. Poi quello ovviamente è stato un momento di stizza, per carità, però proprio rispondeva un moto dell'anima, ecco. Anche da AN si avanzano dubbi. Giulia Bongiorno esprime perplessità sulle esclusione dal processo breve dell'immigrazione clandestina, punibile con una semplice ammenda. L'Associazione Nazionale Magistrati parla di effetti devastanti sul funzionamento della giustizia. Ma non è l'unica novità. Il capogruppo PDL alla Camera, Fabrizio Cicchito, annuncia già un testo sull'immunità parlamentare. Il segretario del Partito Democratico Pierluigi Bersani risponde: non è un tema da proporre ora. Vincenzo Miglietta, che ci accompagnerà in questi minuti per parlare della politica della settimana. Più che un dibattito al Senato sembra una scena di guerra dentro la maggioranza, tra maggioranza e opposizione. Ieri per esempio le ultime parole non certo vellutate, non certo felpate, di Casini, che ha parlato di porcheria, di porcata, riferito proprio a questa nuova iniziativa della maggioranza. Insomma, dove possiamo arrivare, fin dove possiamo spingersi in questa questione molto controversa? È una bellissima domanda questa, perché veramente i toni stanno crescendo di giorno in giorno ed è veramente sarebbe veramente bello riuscire a capire da qui alle prossime settimane, da qui alla fine dell'anno, capire veramente i toni politici sulla giustizia, dove possano arrivare, dove sia possibile mettere un punto fermo e dire: da oggi il paese torna a vivere nella sua normalità, il dibattito politico torna alla normalità che qualsiasi paese dovrebbe vivere quotidianamente. Sappiamo qual è il grande problema: il Presidente del Consiglio vuole uscire dai processi che, come dicevi giustamente tu poc'anzi, lo perseguitano da quando lui è sceso in politica. Le strade seguite dai suoi avvocati hanno avuto alterne fortune, ricordiamo da ultimo il Lodo Alfano. Quest'ultimo disegno di legge è veramente controverso, si sta schierando contro non solo l'opposizione ma anche eminenti giuristi, e quindi veramente è difficile capire quale possa essere il percorso parlamentare. Sembra più controverso del Lodo Alfano stesso addirittura questo disegno di legge. Qual è a tuo avviso l'aspetto più, forse scandaloso è una parola forte, però insomma più discutibile di questa iniziativa della maggioranza? Ecco, non sono parole mie, ma quelle che ho raccolto in queste ore in Parlamento, a microfoni spenti, sia i parlamentari di maggioranza che di opposizione ricordano che con un tempo determinato a priori per ogni grado di giudizio veramente si rischia di andare con colpi di accetta sui vari processi in corso, quindi dando maggiore spazio alla quantità piuttosto che alla qualità del giudizio di ogni Camera di Consiglio. Ricordiamo che il progetto prevede 2 anni per grado di processo, quindi praticamente 6 anni complessivi, altrimenti il procedimento decade, e poi si insinua anche il timore che ci sia un doppio peso, insomma due pesi, due misure, perché magari i processi illustri da Parma a Tacirio potrebbero decadere, mentre l'immigrato clandestino resta ancora avvinghiato alla legge chissà per quanti anni. Sì, è proprio così, quindi si tornerebbe di fatto a quello che ha poi portato alla bocciatura del Lodo Alfano, cioè che la giustizia alla fine nella sua applicazione non sarebbe uguale per tutti. Quindi il disegno di legge sul processo breve potrà anche avere il suo via libera al Senato e poi alla Camera, ma ce lo porteremo avanti per il prossimo anno almeno, quindi prima con la Corte Costituzionale e poi con un referendum che sicuramente l'opposizione chiederà. La questione giustizia, quindi, se si va avanti su questa strada, rischiamo veramente che comprometta tutto il percorso della legislatura. Stiamo cercando un po' di riassumere i temi bollenti di questa settimana politica. Abbiamo parlato della vicenda legata al disegno di legge sul processo breve che la maggioranza vuole forzosamente chiudere, insomma, al Senato prima e poi alla Camera. Naturalmente questa questione della giustizia si inserisce ed è seguente anche al famoso vertice di martedì tra Fini e Berlusconi che tu hai seguito in prima persona. Si può parlare di pace autentica tra i due o siamo ancora a livelli di tregua armata all'interno del PDL? No, siamo sicuramente ad una situazione di tregua armata. Fatto è che il Presidente del Consiglio non digerisce proprio l'atteggiamento che sta avendo in questi giorni il Presidente della Camera. Secondo fonti ben informate, quello stesso faccia a faccia ha raggiunto toni reciproci. Si è parlato di urla e di un Letta pacere. Assolutamente, quindi grande tensione tra i due. Fini ha continuato a parlare in questi giorni a più riprese, radio, TV, ha voluto in ogni momento rimarcare la propria posizione quasi a difensore delle regole istituzionali, quindi si dice che Berlusconi sia veramente molto irritato da questo atteggiamento, quindi possiamo veramente dire che è una tregua armata quella in atto tra Berlusconi e Fini, e che il percorso del processo breve di cui parlavamo prima veramente ne vedrà delle belle proprio in questa funzione. Percorso che potrebbe dunque essere ancora più tortuoso di quello che forse già è, proprio perché non si è arrivati a una quadra tra Fini e Berlusconi. Non si è arrivati ad una quadra, gli stessi finiani stanno mettendo veramente i puntini sulle i in queste ore, quindi potremmo anche avere delle sorprese in Parlamento con delle spaccature. Ricordiamo che poi questo accordo è funzionale anche a quello delle prossime regionali. Ecco, adesso parliamo anche di regionali nel dettaglio, ma giusto per capirci, invece lo spettro, il fantasma delle elezioni anticipate che ogni tanto Berlusconi tira fuori dal cassetto ma poi lo rimette subito al suo posto, aleggia in queste conversazioni con Fini? Assolutamente. Berlusconi ci crede, secondo te? Berlusconi ci crede perché forse l'urna è rimasta veramente l'unica alleata, l'unica vera amica di Berlusconi, non lo ha mai tradito negli ultimi anni, e quindi secondo me se Berlusconi si dovesse vedere messo all'angolo potrebbe ricorrere ad elezioni anticipate. Però a quel punto potrebbe anche essere una mossa davvero, davvero disperata. Di sicuro per il momento si voterà l'anno prossimo per le regionali 2010, appuntamento elettorale importante. Ci sono però molte caselle da sistemare, rebus da risolvere non facili. Direi che in questi giorni il caso più controverso è quello della Campania, dove c'è in ballo una candidatura che a questo punto, come Fini ha detto, sembra impresentabile, cioè quella di Nicola Cosentino, che è sottosegretario all'economia, ma appunto su di lui pende un'indagine su possibili connivenze tra politica e casalesi, quindi insomma indagini molto, molto pesanti. La prossima settimana il Parlamento deciderà se dare o meno l'autorizzazione a procedere nei confronti di Nicola Cosentino. Intanto cerchiamo di capire le accuse che lo riguardano in questo servizio da Napoli di Sergio Danna. Un sistema dello scambio voto contro favori, così viene definito dal GIP Raffaele Piccirillo l'impianto accusatorio alla base dell'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Nicola Cosentino. Nelle 350 pagine del provvedimento vengono evidenziati in particolare 6 indizi a sostegno dell'accusa. Su tutti l'appoggio offerto dal clan dei Casalesi alla carriera politica del sottosegretario all'economia, dalle provinciali del 90 alle politiche del 2001 e la disponibilità di Cosentino verso i suoi elettori di estrazione camorrista. Il GIP evidenzia anche il rapporto di protezione e confidenza con il boss Francesco Bidognetti, che con un messaggio inviato ai capi zona del clan indicava in Cosentino il candidato da sostenere. Tutti elementi ricavati dalle dichiarazioni dei pentiti che accusano Cosentino di far parte del tessuto camorristico. Il giudice evidenzia inoltre l'intreccio tra clan e politica per la gestione dei rifiuti. Attraverso il consorzio Eco 4, Cosentino avrebbe controllato tutte le assunzioni, assorbendo anche le persone segnalate dai comuni che affidavano all'impresa la raccolta dei rifiuti. Il sottosegretario sarà ascoltato mercoledì prossimo dalla Giunta per le autorizzazioni della Camera, che poi si pronuncerà sulla richiesta di arresto. Vincenzo Miglietta, forse su Cosentino, più ancora che sulla giustizia, le divisioni tra Berlusconi e Fini sono più nette. Assolutamente, non c'è argomento, vediamo dove si abbia un accordo tra i due. Fini dice di fatto Cosentino è impresentabile. Cosentino ieri ha incontrato Berlusconi, che gli ha dato, in parte Manforte, quindi veramente non mi stupirei se su questo Berlusconi osasse andare avanti, anche perché Cosentino effettivamente, al di là di tutte le accuse che lo vedono oggetto in queste ore, è un uomo forte in campagna. Un portatore di voti, come si direbbe. Assolutamente così. Tra l'altro poi, come un effetto domino, la scelta della campagna probabilmente condizionerà le successive regioni, cioè la Campania, poi c'è sempre il nodo Veneto con Lega sì, Lega no, Galan che aspetta la finestra, quindi tutto credo sia per ora appeso alla questione campana. Da lì discenderanno le altre nomine regionali. Sì, è così, perché se Fini non dovesse essere contento per la campagna, probabilmente porrà dei veti sul resto del puzzle, quindi veramente ne vedremo delle belle. Allora cerchiamo per un attimo di uscire, di lasciare un po' al loro destino in queste ore le tossine italiane della politica italiana, perché invece sembra quasi un paradosso, ma a livello europeo si potrebbe addirittura ad assistere invece ad una mossa di alta politica, persino bipartisan, da parte dell'Italia, perché è in buona posizione Massimo D'Alema per diventare nuovo ministro degli esteri europeo, questa nuova carica molto importante. Poi spesso di solito chi viene già bruciato come nome in anticipo rispetto al voto poi alla fine non diventa tale, ma insomma in questo momento sembra che le chance di D'Alema di diventare ministro degli esteri europei siano molto alte. Addirittura Berlusconi lo sostiene, poi naturalmente Berlusconi non fa mai nulla per nulla, però insomma intanto è un buon segnale internazionale vedere una scelta bipartisan su un nome forte come quello di Massimo D'Alema. Mercoledì in particolare sono salite le sue quotazioni, sentiamo perché in questo servizio di Sergio Nava. La candidatura di Massimo D'Alema a nuovo alto rappresentante europeo ha mosso ieri un passo decisivo, proprio nel giorno in cui la presidenza svedese dell'Unione Europea fissava per il 19 novembre il summit decisivo per stabilire i nomi delle nuove alte cariche, incluse quelle di presidente europeo e segretario del Consiglio. Il gruppo dei socialisti e democratici ha puntato all'unanimità su D'Alema quale Mr. Pesce, investitura significativa tanto più che arriva pure indirettamente dal governo britannico, che finora si era giostrato a corrente alternata tra l'ipotesi Miliband alto rappresentante e Blair presidente. Sebbene l'eventuale nomina di D'Alema aspetti in ultima analisi ai 27 leader europei, l'investitura socialista pare già un buon viatico per la sua elezione. Per il resto si naviga a vista. Ieri il presidente di turno europeo Frederik Reinfeldt ha ammesso sconsolato di avere più nomi in lizza che posti da offrire e non ha escluso un ricorso alla maggioranza qualificata per trovare i nomi tra una settimana e uscire dall'impasse. In alto mare resta la candidatura per il posto da presidente europeo, col duo Blair Van Rompuy ancora in gara, si annunciano 7 giorni di passione. Vincenzo, abbiamo ancora qualche secondo, lasciamo i rebus italiani, andiamo in Europa, che non è proprio il tuo campo d'azione, però insomma cosa ti senti di dire di questa vicenda di D'Alema? A questo punto gli facciamo comunque anche in bocca al lupo, perché un italiano in questa carica importante fa comunque bene al nostro paese. Credo. Assolutamente, io penso che lui abbia tutte le chance per raggiungere l'obiettivo ed è un fatto molto positivo che Berlusconi si sia speso per D'Alema. Sappiamo di una vecchia simpatia tra i due, o perlomeno non antipatia che risale ai tempi della bicamerale, poi quell'esperienza andò male, ma comunque c'è stato sempre un buon rapporto tra i due personaggi. Poiché l'Europa è sempre un banco di prova per le cose italiane, non mi stupirei che questa candidatura di D'Alema abbia o potesse avere nel prossimo futuro delle ripercussioni anche sulla politica italiana, magari con un appoggio dell'opposizione sull'immunità parlamentare o su cose similari. Si può dire, credo, senza problemi, insomma, Berlusconi magari spera che un D'Alema ministro degli esteri europeo possa addolcire su alcune questioni l'opposizione, visto che anche questa è una sua ossessione, un'opposizione civile come dice lui. Ringrazio caldamente Vincenzo Miglietta, giornalista, collega di Radio 24, che segue le vicende parlamentari, quindi tornerai adesso nell'agone della vicenda italiana di Montecitorio e Palazzo Madama. Chiudiamo veramente con una virata velocissima sull'economia, anche se è sempre legata alla politica, perché in questi giorni in Parlamento è arrivata anche la finanziaria. Ecco quello che è successo mercoledì con Valeria De Rosa. Riforma approvata con 467 voti a favore, 2 astenuti e nessun contrario. Il testo però contiene modifiche, quindi per diventare legge dovrà tornare al Senato. La notizia però è che nell'antro di Montecitorio il governo è stato battuto 2 volte su 2 emendamenti, uno del Partito Democratico, l'altro presentato dall'Italia dei Valori. L'articolo sotto esame è il 21, che ha per oggetto il bilancio di previsione, modifiche che hanno a che fare con una maggiore disciplina e regolamentazione dei confini del bilancio. Modifiche su cui il governo aveva dato parere contrario. Anche lunedì l'esecutivo era stato battuto sullo stesso disegno di legge. Era stato approvato un emendamento del PD che cambia l'articolo 7. Il governo dovrà portare alle Camere entro il 15 settembre uno schema di decisione di finanza pubblica e non più una decisione tout court. L'opposizione prende la palla al balzo. In un comunicato del PD si legge che con quelle di ieri sono 28 le sconfitte alla Camera dall'inizio della legislatura e se si guarda i numeri l'opposizione è sempre compatta o quasi, mentre nella maggioranza le assenze sono spesso numerose. Adesso ci spostiamo metaforicamente a St. Andrews in Scozia, dove lo scorso weekend si è svolto il G20. E allora, per capire che cosa è successo, magari che cosa non è successo, perché spesso in questi maestosi, imponenti consessi internazionali si chiacchiera molto, ma alla fine stringi si conclude anche ben poco, abbiamo in linea Alessandro Merli, che era proprio in Scozia, inviato del Sole 24 Ore. Buongiorno Alessandro. Buongiorno. Allora, non è il primo e non credo sia neanche l'ultimo G20 o G qualcosa che hai seguito nella tua attività di giornalista. Subito sentiremo un servizio di Sergio Nava sulla cronaca di sabato scorso, però prima telegraficamente ti vorrei chiedere un voto a questo G20 scozzese. Diamogli un 6 più, volendo essere un po' di manica larga. Quindi insomma sufficienza piena per il G20 in Scozia. Allora sentiamo la cronaca proprio dell'ultimo giorno di lavori sabato scorso, firmata da Sergio Nava. Un compromesso e un fallimento l'attuale fase transitoria della crisi, con segnali incerti, ha annacquato il vertice dei ministri finanziari del G20, che si è concluso con impegni generici e poche scadenze. Sul fronte dell'economia i rappresentanti delle 20 maggiori potenze mondiali hanno concordato di mantenere le misure di stimolo finché la ripresa globale non sarà assicurata. Secondo il comunicato finale, la ripresa al momento disomogenea, con la disoccupazione che resta uno dei maggiori fattori di preoccupazione. Entro la fine di gennaio si cominceranno dunque a porre le basi per un quadro di riferimento relativo alle politiche nazionali e sovranazionali della Exit Strategy. Fallito invece qualsiasi accordo sui finanziamenti per la lotta contro il cambio climatico, ancora un rinvio a solo un mese dalla conferenza di Copenaghen. Così l'unica proposta concreta emersa al summit è finita nel cestino. But what we need to consider is whether in fact we need to go further. L'idea del premier britannico Gordon Brown per una tassa sulle transazioni finanziarie internazionali è stata respinta sia dal segretario al tesoro americano Timothy Geithner sia dall'FMI. Il commento del ministro dell'economia Giulio Tremonti. La speculazione è meglio bloccarla prima che tassarla dopo. Il governatore di Banca Italia Mario Draghi, presidente del Financial Stability Board, ha invece toccato il tema della regolamentazione dei bonus bancari. Non è soltanto una questione di esagerare il livello di questi bonus, è anche il fatto che queste retribuzioni erano fuori linea rispetto ai rischi che la banca assumeva. Insieme a noi ha ascoltato il servizio di Sergio Nava anche Alessandro Merli, inviato del Sole 24 Ore al G20 di St. Andrews. Allora Alessandro, hai sentito, Nava ha parlato di impegni generici e poche scadenze. Tu pochi minuti fa hai dato invece un incoraggiante 6 più a questo G20. Sei d'accordo quindi col giudizio piuttosto severo di Sergio Nava? Ma credo che dipenda dalle aspettative che uno ha da questi vertici. Se ci si aspetta che ogni volta vengano prese decisioni epocali, evidentemente ognuna di queste riunioni è deludente, soprattutto perché in questo caso si trattava di ministri delle finanze, non di capi di Stato e di Governo, quindi diciamo che la visione era più sul dettaglio che non sulla grande strategia. Secondo me il problema è che si sono intensificate troppo queste riunioni, soprattutto nell'ultimo anno, con il raddoppio, diciamo, con il G8, G7, G8 che ha partorito il G20, si è continuato a riunire il G8, ha cominciato a riunirsi il G20, di fatto ogni 15-20 giorni i ministri o i capi di governo si sono riuniti e quindi è difficile aspettarsi poi che ogni volta si prendano decisioni di grande momento. Ma a tuo giudizio resterà traccia poi nella storia di questo G20 scozzese che abbiamo appena lasciato alle spalle? Beh, nella storia mi sembra un'espressione forse un po' troppo forte. Diciamo che su alcune cose sono stati fatti dei piccoli passi. Credo che l'area forse più importante sulla quale sono stati fatti progressi è quella della riforma delle regole della finanza, perché qui c'è un organismo tecnico al lavoro che è il Financial Stability Board, presieduto dal governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, che fa un lavoro molto concreto su singole misure e singole aree di intervento. Il problema un po' di questo lavoro del Financial Stability Board è che dà delle indicazioni di massima, anche se piuttosto dettagliate sui singoli problemi, ma poi la sua applicazione dipende dalle autorità nazionali, quindi da governi e banche centrali a livello nazionale, e questa è ancora tutta da verificare. Nello specifico l'Italia, il tandem Tremonti-Draghi, come si è comportato a St. Andrews? Ma diciamo che in questi casi forse, per fortuna devo dire anche, ci si tende a spogliare un po' delle vesti di paladino delle questioni nazionali. In particolare Draghi ha questo compito di Presidente del Financial Stability Board, che di fatto in questi consessi lo fa intervenire non tanto come governatore della Banca d'Italia, ma soprattutto come responsabile di questo nuovo organismo che proprio in questi giorni l'Economist ha definito il nuovo pilastro della governance mondiale, perché in effetti è quello poi che prende delle decisioni molto, molto concrete. Qual è invece a tuo giudizio il punto sul quale è più difficile mettere d'accordo le grandi potenze, 20 potenze ad un tavolo come quello appunto del G20? Ma già 20 potenze forse è un eccesso, nel senso che in questo organismo ci sono dei paesi come l'Argentina e l'Indonesia che non si capisce quale titolo abbiano per starci dentro. La verità è che il G20 è una formula che venne creata una decina d'anni fa dopo la crisi asiatica, e per ragioni geopolitiche varie vennero inseriti, soprattutto di interessi degli Stati Uniti, vennero inseriti alcuni paesi che in realtà in un consesso che deve decidere dei destini, diciamo, comunque delle misure che riguardino l'economia mondiale, non hanno cittadinanza, dico l'Argentina e l'Indonesia, ma se vogliamo anche altri paesi, insomma, hanno un peso limitato nell'economia. E chissà, magari si potrebbe anche allargare questo numero, potrebbe salire a 22, 23, chi lo sa. Ma pensi fatto, che 20 già, sia una soglia comunque? Di fatto già ci sono alcuni invitati, tipo la Spagna e l'Olanda, che a volte fanno capolino, dopo che il governo spagnolo ha mobilitato addirittura il re per avere uno strapuntino a queste riunioni. In realtà si è visto proprio in questa occasione, il servizio di Nava citava la questione della Tobin Tax lanciata da Gordon Brown, come l'organismo del G20 è un po' troppo pletorico su queste questioni economiche, è difficile mettere d'accordo 20 teste, alla fine poi le decisioni continueranno a prenderle quelli che contano. Non a caso si parla di un possibile G2 Stati Uniti e Cina. Io credo che non sia interesse soprattutto degli Stati Uniti avere un G2, perché comunque vorranno sempre avere una sponda dell'Europa e del Giappone, comunque che i meccanismi vadano semplificati, questo non c'è dubbio. Grazie ad Alessandro Merli, inviato del Sole 24 Ore, che ha seguito l'ultimo G20 in Scozia. Noi allora, per chiudere questa parentesi sull'economia internazionale, ricordiamo invece quello che ci ha detto la Banca Centrale Europea giovedì nel suo consueto bollettino. Il servizio è di Valeria De Rosa. Nulla di nuovo sotto il sole, se non che l'Eurozona potrebbe essere tornata a crescere nella seconda metà del 2009. Impressione confermata anche dagli esperti che hanno partecipato al sondaggio trimestrale della BCE. Gli analisti hanno rivisto al rialzo la stima del PIL di Eurolandia dell'anno in corso, portandolo a meno 3,9%. Pesano però le incertezze legate alla natura temporanea di molte misure messe in campo per sostenere l'economia. Il prossimo anno invece la ripresa dovrebbe essere più strutturata. Ora bisogna pensare a uscire dalla crisi e per farlo i paesi di Eurolandia devono dare importanza cruciale a politiche che favoriscano l'occupazione. Ed ecco che ritorna il nodo principale: la disoccupazione, già salita a livelli record e che rischia di crescere a dismisura entro la fine dell'anno. D'altro canto, sottolinea Francoforte, i governi devono attuare strategie di uscita dalle misure di stimolo e strategie di riequilibrio dei conti pubblici. Dunque non è tempo di tagliare le tasse, gli sgravi fiscali, scrive l'Eurotower, dovrebbero essere considerati solo nel medio periodo, quando verrà messa mano al risanamento che, secondo Francoforte, deve essere avviato entro il 2011. Sfruttiamo invece adesso gli ultimi minuti prima della pausa per tornare a toccare un tasto davvero molto dolente, quello delle carceri. Lo sapete, la brutta fine di Cucchi, di Stefano Cucchi, è al centro anche delle puntate, delle ultime puntate dell'Ottavo Giorno da diverse settimane. Lunedì arriva un nuovo sviluppo sul piano politico della vicenda che, almeno in quella che è stata la percezione immediata mia, ma credo di molti, mi è sembrato un intervento completamente sbagliato. Sentiamo il servizio nel genere delle 7 di martedì di Paolo Panceri. Poveretto è morto, soprattutto perché era 42 kg, l'hard drug ha devastato la sua vita, era sieropositivo. Con questa affermazione a Radio 24 il sottosegretario Carlo Giovanardi, delegato alle politiche giovanili e alla lotta alla droga, ha dato il via ieri alle polemiche sulla morte di Stefano Cucchi, l'uomo di 31 anni tossicodipendente morto lo scorso 22 ottobre dopo essere stato arrestato una settimana prima. Le affermazioni di Giovanardi hanno provocato numerose reazioni politiche, tra cui molte richieste di dimissioni. Per spiegare il suo intendimento, nel pomeriggio Giovanardi ha contattato la sorella di Cucchi, Ilaria, la quale ha espresso la sua solidarietà. La donna, ai microfoni di Radio 24, ha detto di aver preso atto della precisazione, ma ha ribadito: Giovanardi non la conosce, non sa qual è la situazione di salute di mio fratello, quindi non può insinuare queste cose. Io lo ringrazio di questo suo chiarimento e devo dire che l'ho davvero apprezzato. Però torno a ripetere che quelle parole in questo contesto erano assolutamente irrilevanti. Sul fronte giudiziario ci sono i primi indagati per la morte di Stefano Cucchi. Sono i carabinieri e gli agenti penitenziari che hanno avuto in custodia il detenuto e i compagni di cella dell'uomo. L'accusa è omicidio preterintenzionale. La salma di Cucchi sarà probabilmente riesumata per consentire ulteriori esami sulle cause del decesso. Secondo i primi esami dei medici legali incaricati dalla procura, le lesioni sul corpo sono compatibili sia con un evento accidentale come una caduta, sia con eventuali percosse. L'avete sentito, Giovanardi ha subito telefonato alla sorella di Cucchi e questo è indubbiamente un bel gesto. Nel frattempo è stato anche minacciato di morte e in questi casi credo che valga il vecchio detto che la madre degli stupidi è sempre incinta. Io credo comunque che, accettando per buona la buona fede di Giovanardi, secondo me è importante evitare di dire o fare qualcosa che possa ostacolare le indagini o anche involontariamente offrire una sponda e quindi una giustificazione a uomini di Stato che eventualmente si sono macchiati di reati nei confronti di Cucchi. Intanto martedì da Parma arriva un nuovo caso che fa pensare subito alla triste vicenda di Stefano Cucchi. Sentiamo Maria Luisa Pezzali. Voglio sapere tutto, mio figlio in carcere è entrato sano. Così la madre di Giuseppe Saladino, 32 anni, morto nella cella del carcere di Parma dove era rinchiuso da meno di un giorno. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di omicidio colposo al momento contro ignoti. Il giovane è morto la notte di venerdì, la prima che passava in carcere. Nel pomeriggio era stato sorpreso a passeggiare in strada nonostante dovesse scontare una condanna ai domiciliari. Un anno e due mesi per furto con scasso aveva svuotato alcuni parchimetri. I risultati dell'autopsia già effettuata sono attesi per i prossimi giorni, anche se troppo presto c'è già chi evoca analogie con il caso Cucchi che intanto continua a far discutere. È un dovere garantire alla famiglia di accertare le eventuali responsabilità, ha detto ieri il presidente della Camera Fini, mentre grazie alle testimonianze raccolte, quella di un detenuto in particolare, prende corpo l'ipotesi che Stefano sia stato picchiato in due momenti diversi, in tribunale e poi a Regina Coeli. Ultima parte del programma, partiamo da Obama, perché dopo la settimana, la scorsa, degli anniversari, era il primo anno alla Casa Bianca e delle prime sconfitte elettorali, ma non direi di drammatizzare su questo, quest'ultima settimana invece è stata molto importante, molto significativa. Si è aperta con l'approvazione al Congresso, quindi siamo soltanto all'inizio della camminata, della riforma sanitaria. La strada naturalmente è ancora lunga per vedere attuata questa riforma copernicana che potrebbe dare a milioni, a decine di milioni di americani finalmente un'assistenza medica. Ma per Obama, che finora forse ha ottenuto più risultati all'estero che in patria, si tratta naturalmente di un importante e bel risultato. Sentiamo da Washington Luciano Clerico domenica mattina. Storica vittoria di Barack Obama in nome di Ted Kennedy. La Camera dei Deputati, in una rara seduta di sabato, conclusasi solo a tarda notte, ha approvato un testo di riforma sanitaria proposto dall'amministrazione Obama, che di fatto spalanca le porte alla riforma vera e propria. Per l'America e per Obama è un risultato politico di proporzioni storiche. Il voto della Camera equivale infatti per lui a una vittoria di straordinaria portata politica. Non a caso prima del voto aveva voluto andare di persona al Congresso per dare l'ultima spinta. Il testo è passato con 200 voti a favore e 215 contrari. Per soli 5 voti, dunque, Obama vede così spalancarsi le porte di un traguardo epocale, quello di portare in America un'assistenza sanitaria di tipo europeo. Non solo tutti i repubblicani, tranne uno, hanno votato contro, ma anche l'ala più moderata dei democratici ha detto no. Invece, per soli 5 voti, il testo è passato. Si tratta di un successo che in materia di sanità non ha precedenti nell'ultimo mezzo secolo di storia americana. Solo Ted Kennedy lo aveva inseguito per tutta la vita, ma senza mai raggiungerlo. Mentre parliamo, Obama si trova in Asia, perché da ieri ha cominciato un lungo tour in Oriente che l'ha già portato in Giappone, lo porterà in Cina, che poi è la tappa cruciale, fondamentale di questo viaggio. Hanno colpito molto le parole dette su Hiroshima e Nagasaki da parte di Obama, che ha detto di sperare, insomma, entro la fine del suo mandato, del suo primo mandato nel 2012, di andare proprio nelle due città simbolo della fine della Seconda Guerra Mondiale e della bomba atomica. Sapete, nessun presidente americano è mai andato lì a Hiroshima o Nagasaki, se non Jimmy Carter, ma nel 1984, quindi quando non era più presidente americano. Questa è invece la presentazione del viaggio fatta ieri mattina da Mario Platero, che poi si trova al seguito di Obama in Oriente. Barack Obama arriva questo pomeriggio a Tokyo per il suo debutto asiatico, un debutto importante visto che negli ultimi anni gli Stati Uniti avevano trascurato il teatro asiatico, preoccupandosi più di quello europeo e delle guerre in Iraq e in Afghanistan. Dopo la tappa a Tokyo, importante perché c'è un nuovo primo ministro, Hatoyama, che rappresenta una nuova classe politica ben diversa da quella che ha governato il paese per 50 anni, Obama andrà a Singapore. Ovviamente il punto centrale di questa visita sarà a Pechino. La Cina resta oggi il principale interlocutore commerciale degli Stati Uniti, il principale sottoscrittore di buoni del tesoro americani. Si parlerà ovviamente delle recenti misure protezionistiche degli Stati Uniti prese in settembre su prodotti siderurgici, ma anche del rapporto valutario. La conclusione, dicono tutti, è che alla fine cambierà poco. È nell'interesse sia di Stati Uniti che di Cina mantenere il rapporto fluido sul piano economico, con Stati Uniti che importeranno un po' meno di quanto hanno fatto finora, ma con la Cina pur sempre pronta a sottoscrivere buoni del tesoro americano. Scampoli finali di trasmissione per dar conto di altre due notizie importanti, seppur diverse tra loro. Cominciamo dalla tragedia di Ischia, perché una frana ha travolto l'isola martedì. C'è stata una vittima, una ragazza di 15 anni, quindi tecnicamente non possiamo parlare di strage. Questo ha un po' offuscato sui giornali la notizia, che è retrocessa nelle pagine finali, nessun titolo in prima pagina appunto, però è giusto ricordare che il disco rotto dell'abusivismo, dell'incuria dell'uomo, che sono alla base di questa sciagura, è sempre lo stesso e rimane purtroppo inascoltato. Tutto questo nella settimana in cui Bertolaso ha annunciato di volersi ritirare, di voler rinunciare perlomeno dall'anno prossimo ad essere guida della protezione civile italiana. Sentiamo Simone Spezia. Non è la prima volta che Guido Bertolaso predica in un apparente deserto. Lo vediamo apparire di nuovo davanti alle telecamere mentre esprime rabbia per la frana che ha colpito Ischia, uccidendo una ragazza di 15 anni e ferendo 10 persone. Perché, ancora una volta, il disastro ha dei colpevoli. Non la furia del cielo, ma in questo caso un canale di sfogo troppo stretto e maltenuto. Così ricomincia, e avviene da decenni, il rito stanco del pianto sul fango caduto, quello per intenderci sulla tragedia evitabile o annunciata. Il fatto è che ad Ischia, così come è stato a Messina o fu a Sarno, evitabile e annunciata la tragedia lo era. Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha appena stanziato 1 miliardo di euro per la difesa del territorio. Ottimo, ma questi soldi andranno spesi e, fatto più importante, spesi bene. Ma c'è un altro lavoro da fare. Una parte della classe politica locale d'Italia è disposta a chiudere un occhio, quando non ad aprire il portafoglio, alla parola abuso edilizio o, più semplicemente, è disattenta alle più elementari misure di prevenzione. Cambiare la testa di costoro è il compito più duro. Infine Berlino, che lunedì è stata l'ombelico del mondo perché tutti hanno guardato la capitale tedesca per il ventennale della caduta del muro, grandi celebrazioni, c'è stata retorica, ci sono stati rimpatriati anche dei vecchi protagonisti della riunificazione del 1989, direi che c'è stata poca analisi profonda e molto invece a Marcord. Sentiamo dalla capitale tedesca Beda Romano. Per qualche ora ieri la Germania e l'Europa hanno dimenticato la crisi economica e gli scontri politici e hanno celebrato la caduta del muro e la ritrovata unità del continente. Non sono mancati i discorsi, i fuochi d'artificio, i bagni di folla e i momenti simbolici, come la visita del cancelliere Angela Merkel, dell'ex presidente sovietico Mikhail Gorbachev e dell'ex presidente polacco Lech Walesa alla Bornholmer Straße, là dove si aprì la prima breccia nel muro il 9 novembre 1989. Nonostante il freddo, il vento e la pioggia, i berlinesi hanno passeggiato attraverso la città, dalla porta di Brandeburgo alla Alexanderplatz, dal Reichstag al Checkpoint Charlie, per celebrare un momento decisivo che ha cambiato l'Europa. Tra i segnali politici più interessanti, l'appello al multilateralismo lanciato dal cancelliere Merkel agli Stati Uniti. Nella puntata di oggi niente spazio per lo sport, eppure ci sono state tante notizie anche tristi. Segnalo perlomeno il suicidio di Robert Henke, ex portiere dell'Hannover e della nazionale tedesca di calcio. Oggi intanto l'Italia di Lippi scende in campo con l'Olanda e poi grande spettacolo per gli amanti del rugby a San Siro per il test match tra Italia e Nuova Zelanda. Abbiamo finito, ricordo la mail ottavogiorno@radio24.it per chi ci vuole scrivere. Io ringrazio Valerio Rocchetti in regia e vi do appuntamento a sabato prossimo, come sempre alle 9 oppure in replica alle 23, naturalmente su Radio 24.